Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio tutto italiano ha dimostrato per la prima volta che un batterio di origine prevalentemente intestinale, l'Escherichia coli, circola nel sangue dei pazienti con infarto. Commentiamo i risultati dello studio che è stato pubblicato sull'European Heart Journal insieme al professor Francesco Violi, direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I, che ha ideato e condotto lo studio. La novità dello studio è di aver trovato dei batteri intestinali in circa il 30% dei soggetti che hanno un infarto del miocardio. Sono batteri che nei soggetti sani non si trovano e quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che questi batteri si concentrano nel trombo dei soggetti che hanno fatto l'infarto, perché l'infarto è dovuto a una trombosi delle vie, delle arterie coronariche. E quindi concentrandosi lì abbiamo ipotizzato che questo batterio, le capsule in particolare di questo batterio, potessero essere protrombotiche attivando le piastrine. E quindi per spiegare il fenomeno, per corroborare questa ipotesi, abbiamo iniettato le Escherichia coli nei topi e abbiamo dimostrato che effettivamente le Escherichia coli, alle concentrazioni simili a quelle che si trovano nel sangue dei pazienti infartuati, sono protrombotici, quindi accelerano la formazione del trombo. Infine abbiamo capito qual è il meccanismo attraverso cui i batteri attivano le piastrine, quindi fanno trombosi, e quindi nei topi abbiamo iniettato oltre ai batteri un antidoto che bloccasse l'interazione tra il batterio e le cellule, e con questo antidoto abbiamo ridotto la trombosi e quindi abbiamo trovato un nuovo meccanismo che collega batteri, trombosi e quindi eventualmente infarto. Professor Violi, questi risultati, oltre ad aver definito un nuovo meccanismo che favorisce l'infarto, aprono prospettive interessanti. La prima cosa è quella di fare prevenzione. Allora, uno dei motivi attraverso cui i batteri passano nel sangue di questi soggetti è il cibo. I cibi particolarmente grassi fanno da veicolo ai batteri, e in particolare alle Escherichia coli, dall'intestino al sangue. Quindi la prima cosa che bisogna fare è fare prevenzione e mangiare cibi che non siano grassi. La seconda cosa è valutare i meccanismi che alterano la permeabilità intestinale, quindi oltre al cibo grasso ci sono altri meccanismi che noi ancora non conosciamo e che dovremo studiare nel prossimo futuro. La terza possibilità è quello di usare l'antidoto che noi abbiamo sperimentato nelle fasi acute dell'infarto, questo è il terzo punto importante che vedremo nel prossimo futuro, e il quarto, che è quello più ambizioso, è quello di valutare se è possibile attraverso un vaccino ridurre gli effetti negativi che l'Escherichia coli ha sulle arterie e quindi sulla patogenesi dell'infarto del miocardio. E per oggi è tutto, noi ci fermiamo ma continuiamo in diretta Facebook a parlare della relazione tra i batteri e la nostra salute. Non mancate, vi aspetto in diretta con il nostro esperto, mentre la programmazione di Radio 24 come sempre prosegue con Melog. Una buonissima giornata da Nicoletta.